disegno anche te. Vette di volo infinite. Siamo una stella nella mente ribelle. Vedo nella notte flebile te. Mea luna nel cielo stabile. Se rimiro la penna a fare luce, allora il foglio descrive farfalle. Del tratto sulla pagina compare di te. Mantide, spoglia in memore. Se amo, amo perché nessuno odiai. Nessuno sono io. Amabilmente uno, indissolubile a Dio e all'immenso altare mio. Se descrivo pagine, rime, lame, alla memoria mine, al vero disistime, che approssimo alla finitudine del corpo e all'immensità di anime. Ricordo ciò, il dolore, orbo di me, io che guardavo cambiare e vedo oltre coltre di rime in cambio animisticamente stupefacenze di danze oltre. Oltre il solo stare ora navigare, navicella spaziale, navicella spaziale. Se disegno una nuvola disegno anche te, vette di volo infinite. Se disegno una nuvola disegno anche te, vette di volo infinite. Siamo una stella nella mente ribelle. Vedo nella notte flebile te, mea luna nel cielo stabile. Vedo nella notte flebile te, mea luna nel cielo stabile. Se rimiro la penna a fare luce amara, il foglio descrive farfalle, farfalla rara, dal tratto che sulla pagina compare di te, mantide spoglia.